Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stiamo testa di cazzo internazionale. Stiamo parlando, stiamo parlando. Non so che non sei altro. Ma che dici? Ma che cosa stai parlando? Ma una volta facevi il giornalista, ti devi insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Scusi, sono al cesso in questo momento, che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora facciamo una cosa, si mette anche lì dentro, tiro lo sciacquone. Hai capito? Ma perché? Ma perché? Devo vedere sto coglione ebreo schifoso di merda anche da Giletti. Ma perché? Porca puttana! Oh, spero di vedere Giletti, una trasmissione diversa, quella che era la Rai. Ho detto, sono contento, voglio rivedermi la seconda di Giletti. Chi tocca, mi tocca vedere un coglione, pezzo di merda. Mamma mia, quando ti vengo a beccare, quante legnate che ti do, ma quante legnate, ti insegno io l'educazione, coglione! Uè, buscetta, tofu, a me che hai comprato il vestito non me ne frega un cazzo da 4.000 euro, ognuno fa quello che vuole, figurati, io li spendo in bambe puttane, quindi figurati se ti giudico per il vestito, però sei una merda, tutti voi radical chic di merda, parlate, poi che fatti fate, spende 4.000 euro per un vestito e poi dice povero immigrato, ma a te che cazzo te ne frega dell'immigrato, coglione, buscetta, t'ho detto sei come il tofu, non serve a un cazzo, buscetta. Ascolta, che tu ti sei allontanato. A me non me ne frega un cazzo. David, ci sei? Ah, signore. Sei pronto? È iniziata da soltanto, mi pare, 2 minuti e mezzo. Stavo prendendo il tempo. Sì, e sono stati commessi almeno 3 reati. Comunque, dai, va bene. Oggi non importa, dai, andiamo avanti. 3 reati in 2 minuti e mezzo. Ma vediamo. Quali sarebbero? Scusa, non ho capito. Delle diffamazioni aggravate, delle cose incredibili. 4.000 euro di vestito non è costato 4.000 euro. Beh, è una cifra. Alcuni mi hanno detto che costa molto, molto di più farsi fare un vestito da quelle parti. No, in quei luoghi dove può... sei andato. Sì, in quei luoghi. Ma naturalmente può costare molto di più. Non è quel caso. Ma non mi voglio fermare a questo, ma alle tante diffamazioni che ho sentito, e ringraziarvi ancora una volta per aver aperto la settimana del lunedì, di questo nuovo lunedì, con questo scontro che fu con il signor Chiesa, quindi grazie ancora una volta per aver ricordato all'opinione pubblica che ascolta questa trasmissione quel memorabile scontro. Va bene, dai, cosa abbiamo adesso, quali altri, chi c'è? C'è qualche nipote di Prib? Che cosa succede stasera? Fammi capire un attimo. Chi c'è? No, chi c'è? No, qualche partiamo subito così. No, qualche no, criminale, qualcuno partiamo che ha menato subito. Qualche no, qualche partiamo, rom. Allora, no. Qualche rom. Avanti. I cosa rom hanno ci fatto sono i rom? Sempre. I rom ci sono sempre. Cosa rom. Hanno fatto oggi? Rom immigrati ci sono rom, sempre. Ci sono sempre. Sempre. Ma partiamo, ragazzi, sembra andiamo con ordine, sembra che siamo allora. Tornati nel 94. Berlusconi, sì? Amico mio. Stupendo. Berlusconi presente ovunque. Sì, non l'ho visto ieri perché vada Fazio dall'ottimo Giletti. Sì, ma vada Fazio e c'è un'intervista che dire sdraiato e dire poco. C'è una cosa. È sì. Vero che tutte le interviste di Fazio sono sì, no, un ma po' non, così. Non c'era il conduttore ieri, evidentemente. No, ieri non c'era il conduttore. Come non c'era? Quello che ho visto io non c'era, ho visto solo. Io ero da Giletti, ripeto, ma ho visto che c'era soltanto Berlusconi, non c'era. Parlava da solo, non c'era un conduttore, c'erano dei pesci. c'erano dei pesci, c'era un acquario con dei pesci. Parenzo, ma non c'era. Attacca Fazio, il conduttore non c'era. Ma come dice Sallusti, ma diciamo una cosa normale, mi pare, no? Evidente, normale. Su Dell'Utri, vai, su Dell'Utri. Questo è un motivo di polemica perché Fazio non ha risposto a Berlusconi su Dell'Utri quando Berlusconi diceva che Dell'Utri è un cattolico praticante, è un processo politico, eccetera. Certo. Vai, vai, vai. Marcello è una delle migliori persone che abbia incontrato, è un cattolico praticante, un buon padre di famiglia, è il bibliofilo numero uno che abbiamo in Italia, fondato con me Forza Italia, è in carcere a seguito di un processo politico. Poi è stato anche da Sallusti alla terza di Forza Italia, dove ha detto più o meno le stesse cose. Però io mi domando ancora, che cazzo ce ne frega a noi che è un cattolico praticante? Cioè, perché è come se avessi una patente, se uno avesse una patente, come dire, di bontà. È come se tu lo dice come scriminante, come dire, appunto, è una brava persona, capito, perché è un cattolico praticante, lo usa come argomento. È pieno di delinquenti che sono che vanno in chiesa a pregare. Non c'è dubbio. E allora che c'entra? Dice, ha fondato con me Forza Italia, ma che è un'altra cosa che non c'entra. Ma una infatti mazza. Vedi che c'era il silenzio dall'altra parte, c'erano i pesci che lo intervistavano, non è che qualcuno ha detto no, scusi, però è condannato con sentenza definitiva per concorso esterno. No, c'erano i pesci, ma è un nuovo format della RAI, fanno benissimo, cioè mettono dei pesci muti che nuotano dell'acquario e un ospite meraviglioso. No, ma la cosa che più mi ha fatto girare i coglioni, al di là del fatto che chi se ne frega di queste cose qui, di Dell'Utri, eccetera, eccetera, è il che bisogna togliere l'IVA, una delle proposte di Berlusconi, oltre a regalare quattrini, anche Renzi vuole regalare quattrini, tutti qua sono pronti a regalare quattrini, Renzi e Berlusconi, euro a 80 euro dare, estesi, dai, Berlusconi che vuole regalare quattrini a destra e a manca, ecco, agli anziani, punto. A chiunque, tutti promettono, è iniziata la campagna anche elettorale. Stelle. Anche i 5 Stelle, il reddito, sì, come no? Il reddito minimo di cittadinanza, sì, che vabbè. Scherzi. Sì, certo, dai, certo. Allora, il veterinario per i cani, e via l'IVA per il cibo agli animali. Via l'IVA per il cibo agli animali. Via l'IVA. Ma andrebbe triplicata l'IVA. Triplicata per. Ma triplicata. Adesso perché? No, triplicata non ha senso, così, però. Ma così per sfregio, capito? Vai. Un anziano che ha un cane vive più sereno, vive più a lungo. Ci penseremo anche a introdurre delle facilitazioni per poter mantenere un cane con, per esempio, un veterinario gratuito ogni 15 giorni e togliendo, ad esempio, dai cibi per i cani per le persone che non possono anche l'IVA. Comunque, ragazzi, Berlusconi in realtà è un leader socialista. Cioè, perché il veterinario pagato dallo Stato e via l'IVA per cibo, per il cibo degli animali, sono tipiche cose stataliste, cioè dello Stato che vuole prendersi cura degli anziani, dei cani degli anziani, di chi vuole comprare il cibo per gli animali, ma non se ne può più, per carità, è sempre il numero uno, Berlusconi. Beh, il Fazio sarà contento avendo quell'acquario lì, evidentemente la RAI così risparmia almeno, no, sul cibo per propone i pesci. Come premier un generale dei carabinieri. Ecco, il quale però non sapeva nulla, questo è il dettaglio. Era 8 anni che non lo sentiva. Non sapeva nulla in generale. Sì, oltre a non sapere nulla, ma ha detto anche io non sento Berlusconi da 8 anni. Stupendo. 8 anni, amico mio. Dunque propone un nome a cazzo di cane, meraviglioso. È tutto un grande show, ragazzi, è tutto un grande spettacolo, è tutto un grande, una grande baracconata, è meraviglioso. Io ho tanti nomi, penso naturalmente, non so se lo conosce, un certo Silvio Berlusconi, sperando che arrivi la candidatura. Siamo partiti dall'assunto che lei non sia candidato. Oppure abbiamo diversi nomi, non mi fa. Ne ho ancora parlato, le dico una persona molto capace, a cui però non mi sono ancora rivolto, non sono entrato in argomento. Il generale dei carabinieri Gallitelli, che è considerato, Leonardo Gallitelli, come uno dei migliori vertici del corpo dei carabinieri. Questa è una notizia. Ragazzi, è una cosa incredibile, dai. Cioè, che candida un generale che non sa un cazzo. Ma ragazzi, ma dove stiamo? Ma è meraviglioso, dai, ma è una roba meravigliosa. Sì, è un genio. È una meraviglia, è una meraviglia. Oh, ti voglio segnalare, David, che Israele si vuole sbarazzare di 40.000 immigrati africani 40.000 immigrati africani. Se ne vuole sbarazzare, ha già trovato un accordo con alcuni stati africani, li vuole sostanzialmente deportare per motivi di sicurezza e di criminalità. Non userei questa parola, diciamo. Li vuole deportare. Ho seguito la storia, hai usato la parola chiave, cioè ha fatto un accordo. Esatto. Con lo Stato africano. Ma non ho capito, Israele può portare via per motivi di sicurezza e di criminalità 40.000 persone. No, ma ha fatto un accordo con lo Stato, quello che abbiamo fatto noi con la Libia, che noi facciamo gli accordi con gli Stati, no? Non sono nemmeno cittadini di quei paesi. Cioè, ma lì, non tutti, quando sgarri, anche per motivi di sicurezza, ti prendono e ti mandano via senza troppe. E lo sai benissimo, senza troppe chiacchiere. Guerra, amico mio, ma senza troppe chiacchiere. È un paese circondato da nemici. Come Israele, dobbiamo fare come Israele, amici miei. Un paese in guerra. Beh, qualcuno noi siamo potrebbe un paese, dire che, qualcuno anzi, potrebbe dire che siamo anche noi in guerra. Un paese per fortuna. Qualcuno potrebbe dire anche noi che siamo in guerra. Sabaeta, venerdì o sabato, a dalla vostra parte. Parenzo, devi rimediare, perché ma le daranno qui... ma no, perché le daranno già un gettone di presenza. C'è un pericolo, c'è un pericolo. Ma le daranno un gettone. Allora, no, la cosa è questa: chiamiamo Sabaeta per dire io non posso purtroppo assumere, le chiedo scusa. Chieda a Mediaset un gettoncino di presenza. Sono pronto a fare io la trattativa con gli amici di Mediaset. Non prendo la percentuale, ovviamente, del 10, del 15, non lo prendo. No. Le lascio cash il gettone di presenza. Ormai ci sono le firme. I Rom, appello ai Rom d'Italia all'ascolto. Quando vi chiamano a Mediaset o in altre trasmissioni dalla vostra parte, passate alla cassa, chiedete un piccolo gettone di presenza, così potete sostenere le storie, tanto dirlo gratis o dirlo con un millino in tasca, sentiamo. Tanto vi chiedono le stesse cose, voi rubate, certo che ruba, e intanto prendete 1.000 euro. Guarda mio padre, dove ha tutto, è andato data la vita a Auschwitz. Mio marito è morto qua di un tumore, mia famiglia. Io chiedo danni di mia famiglia che è morta qui in questo campo. Cioè, hai il padre morto nei campi di concentramento. Cioè, se non la prendi te, chi la prende? Questo è pazzesco, non lo sapevo. Accanto, c'era Zuinisi accanto là. C'era Zuinisi, quello delle associazioni Rom. Accanto a lei. Senti. No, questo è pazzesco, poveretto. Assumila. Ma non sono un'azienda. Mazza. E che azienda sono io? Individuale. Una partita IVA. Da solo. Accanto a me c'è Sabaheta Hamidovic, suo padre, un partigiano che ha lottato contro il nazismo, è stato rinchiuso ad Auschwitz. Ci sono 4 morti di Sabaheta Hamidovic per le violenze che lo Stato italiano sta facendo verso la nostra comunità. Cruciani Crumiro, devi morire. La Zanzara. Zanzarosi. Giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cioè, Parenzo, fammi capire una cosa. Vai a Napoli, spendi 4.000 euro per un vestito e noi gli ridai a tuo figlio Ciro. Mettete scuro, nome merda. Stavo pensando che questa sceneggiata dell'abito napoletano è geniale. David così adesso ha fatto sapere per via traversa a Natania che 3, 4, 5 mila euro del suo stipendio sono andati a finire per l'abito. In verità ha speso 100 euro in un grande magazzino e i soldi sono andati a finire a suo figlio Ciro. Sai, il mantenimento costa. Tenere pure la bocca chiusa per la povera Anna. Bah. Ciao. Questo è un retroscena, è un retroscena no, sulla sei tua... fortunato che la legge sulle fake news non è ancora legge, diciamo, è cioè, soltanto è una proposta. Un retroscena perché... sulla tua visita a Napoli, questa qua, un retroscena. Ma ragazzi, non è un retroscena, è una vigliaccata, ma è una che porcata vigliaccata che hai messo in piedi e che avete costruito con quei 4 miserabili. Che... Ma chiunque può mandare un WhatsApp e dire Parenzo ha un figlio a Napoli, di nome Ciro per giunta, questa è l'altra cosa incredibile, allucinante. Allora, C'è un signore, un islamico, che è il capo di una federazione islamica in Veneto, il quale dice che vuole lasciare l'Italia perché ci sono troppe tasse. E dunque, non è l'unico. E non arriva a fine mese. Lo ha fatto anche Marchionne. Quindi sono non pronto. Vedo... Beh, adesso stai paragonando Marchionne a questo signore della federazione islamica. Ho detto semplicemente che Marchionne non paga le tasse d'Italia. Comunque, non mi pare questo, una cosa signore, grave, no? Questo signore, che ha 57 anni, vuole mollare l'Italia dicendo che ci sono troppe tasse. Ma anche dice anche un'altra cosa: che non riesce a praticare la sua religione. Perché non si possono costruire più le moschee, perché i centri islamici vengono chiusi. Ma ragazzi, ragione, ma di che stiamo parlando? Ma fa prega, una battaglia di libertà, prega, una battaglia non di rompere libertà. I coglioni, poi prega. Ma prega, nessuno se non lo fanno ti impedisce, pregare, non nessuno si possono costruire le moschee. Ma nessuno ti impedisce di pregare, no? Nessuno ti impedisce di pregare. E non gli fanno costruire le moschee, perché non c'è diritto a avere un luogo di culto. E perché non costruiscono le chiese allora nei posti, nei luoghi islamici? Ecco, ma cosa vuol dire questo argomento? Ma che argomento è? Ma perché noi siamo l'Occidente, siamo democrazia, noi siamo meglio. Se questo signore qua vuole raggiungere le figlie in Qatar, come dice, se vuole lasciare l'Italia perché le tasse sono troppo alte, per carità, lo possiamo anche capire. Se vuole lasciare l'Italia perché non gli fanno costruire le moschee, non gli fanno costruire i luoghi di culto, ma perché gli chiudono, eccetera, vada pure. Vada, ma, ma non ti capisco, perché difendi Marchionne e non difendi questo qua? Vada, nessuno, come dire, no, nessuno lo trattiene dall'Italia. Se uno se ne vuole andare perché dice siamo un paese in cui non si possono aprire le moschee, in cui i luoghi di culto non si possono aprire perché ci chiudono i luoghi di preghiera, invece bisogna pregare tutti insieme, e poi dice ci sono tasse troppo alte, adesso lo scopre questo qua che ci sono tasse, e le mie figlie fanno grandi affari o comunque stanno benissimo in Qatar. Vai in Qatar tranquillamente, vai. Non ti va bene, Camel e Barchetta, e tu resta qua. Beh, questo era Prosperini, adesso me l'hanno messo così. Signor Prosperini, sì, si ricorda. Sta per il trenin, sta per il piroscopo, sta per il Camel e tu resta qua. Ragazzi, la politica impazzisce sulle fake news. Io vado ai matti. Giusto. Vogliono. Ci spiegano che vorrebbero fare una legge contro le fake news. Ragazzi, i politici stessi sono una fake news vivente. Il tema è serissimo, invece. Rompono il cazzo a grillo sulle fake news. Quando hanno fatto propaganda per 50 anni. Il movimento di Salvini e quello di Beppe Grillo hanno lo stesso account per fabbricare notizie false, amico mio. Stai dicendo che Salvini fabbrica notizie false? Salvini e Grillo fabbricano notizie false? Il responsabile di Facebook o Twitter, non mi ricordo. Ragazzi, la realtà è questa: i politici per una vita ci hanno raccontato e ci raccontano cazzate, ci raccontano fake news e di propaganda, e noi ci dovremmo preoccupare di quattro stronzi su internet che raccontano minchiate. Al contrario della propaganda di regime per una vita, la propaganda per una vita è così. Cosa dici? Propaganda di regime? Putin, che cazzo dici? Ma sì, che vuole il regime, ma cosa stai dicendo? C'è un problema enorme di questi qui che scrivono minchiate sulla rete e non vengono puniti. Ma perché posso dirti una cosa personale? Sì. Quando mi hanno scritto li portassero in tribunale. Infatti, certo, vanno portati in tribunale, vanno sanzionati, va spiegato che è una balla, che è una diffamazione. Quello che si sente diffamato vale quanto quello scritto sui giornali. Vanno puniti i fabbricatori di minchiate. E Einaudi diceva conoscere per deliberare, quando Einaudi, leggiti Einaudi, conoscere per deliberare. La democrazia è drogata oggi dalle balle che vengono proposte. Sergio da Vicenza. Ma chi è Sergio? Non mi interessa. Sergio da Vicenza, vai. Vai, ciao, Sergio. Sergio. Dimmi. Ciao Davide, ti saluto. Vai, Sergio, ciao, dimmi Sergio, però, caro, parla bene, dai, okay, amico mio, dai. Cruciani, io volevo soltanto dirti una cosa, anzi, tre cose. La prima: questi immigrati che vengono qua, 90% sono o della Somalia o dell'Eritrea. Quindi questo vuol dire che sono ex colonie italiane. Sì, ma scusami, quindi, Sergio, a noi che cosa ci interessa a noi questa cosa qua? Innanzitutto parla bene, senza viva voce e senza auricolare, capito? No, io non ho né viva voce, abbasso un po' il volume della radio. Voce né auricolare. Allora, forza, dimmi. Tu hai parlato degli immigrati. Sergio, cosa vuoi dire? Spiegami. Vincenzo dalla provincia di Salerno, vai. Cominciamo subito a eliminare le scorie. Stavo dicendo una cosa giusta. Poi però magari lo riprendiamo, non è particolarmente efficace. Vai, Vincenzo, dimmi. Pronto? Dimmi, Vincenzo, dimmi. Niente, io avevo una semplice curiosità. Dimmi. La signora Sabaeta ha detto che il papà è morto in un campo di concentramento. Sì. E quando muore un genitore è sempre una tragedia. Vabbè, allora forza. Mi chiedevo quanti anni ha la signora. Ma non lo so, ma che cazzo ce ne frega a noi che quanti anni ha Sabaeta? Avrà 50 anni, avrà 50 anni, 45, allora 46. Il papà quando l'ha generato? Col cazzo mediatico? Tu dici che era un quadro, non torna i conti. Lei è una persona veramente disgustosa, posso dire? Veramente disgustosa. È disgustosa. No, però, è disgustosa per due ragioni. Primo, perché ha questo tono di voce da banalità del male, come avrebbe detto Anna. Lui sta dicendo un'altra cosa. Siccome la Sabaeta ha detto no, del padre... ma lui è il classico, ha lo stile del classico aguzzino del Terzo Reich. Perché, cioè, Vincenzo? Te lo spiego. Cioè, è il classico burocrate della morte. Sai quei burocrati che dicevano, ma noi... Signor Parenzo, è disgustoso il tono della voce e la lucidità, la lucidità con la quale parla di queste cose. Ma tu sei un po', Vincenzo, scusa, sei un po' fascista? Sei un po' fascista? Io? Tu? No, a me la politica mi fa schifo in genere qualsiasi colore politico. Appunto, dunque, Duce ti piace? Sei affascinato un po' dal Duce? No, non sono affascinato da nessuno. Da nessuno, niente. Da chi? Da se stesso. Da chi? No, neppure da me stesso. E da chi? Ti fai schifo, lo posso da capire. Solo. Ti fai schifo. Questo, su questo ha ragione, però concordo su questo. Sì, ti fai schifo. No, ma schifo. Non posso che concordare. Vedi che dice delle cose intelligenti ogni tanto? Bellissimo. Fermi tutti. Certo, fermo lì. La Zanzara. Bella raga! Sto tornando, merdi! Vai giù, se volete parlare al telefono che a Zanzara da fa l'80024 0024, oppure se volete mandare un sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Sti comunisti sindacalisti del cazzo, non rompessero i coglioni. Io faccio il farmacista e anch'io faccio 15 km al giorno avanti e indietro e non rompo il cazzo a nessuno. Oh, ma di che cazzo stiamo a parlare? Io lavoro come impiegato, sistemista informatico. Devo stare seduto 8 ore al giorno come videoterminalista. Sono soggetto all'abbassamento di vista, sono soggetto ai dolori di schiena, di mano, del cazzo che ti pare a te, ma al lavoro sto lì e non cago il cazzo come fai te. Te hai scelto di fare magazziniere? Allora ti tocca camminare, puoi fare magazziniere? Cammini, se no ti metti a fare altro, ma qualunque cosa ti metti a fare, qualche danno te lo genera, è normale. Ma tu non devi cagare il cazzo, devi lavorare, devi stare zitto, devi pure di grazie. Grazie ce devi dire, perché c'è là un lavoro, pezzo di merda che viene dalla Costa d'Avorio. Se no torni al paese tuo e te ne vai pure a fanculo e ci resti. Pezzo di merda! Non ti va bene, Camel e Barchetta, te tu resta qua. Prendi la responsabilità di quello che dici, Parenzo, hai capito? Hai capito? Prenditi la responsabilità, hai detto che farvi chiamo le fake news. I fake news li facete voi altri, UPD e di Forza Italia. Casate tutta la squadra, o capisse, facci minchia! Era il tocco finale del grillino palermitano, sì. Del militante amico, grillino palermitano, sì. Caro amico a 5 stelle cosiddetto, sì, caro sì, amico sì, a 5 c'ha? Stelle nella rete è pieno di puttanate, allora, alcune di queste allora, vengono sembra allora, prodotte sembra. Da alcuni account che fanno riferimento alla galassia e chi se ne frega che ruota intorno al cosiddetto allora, blog e allora a 5 li denunciassero e basta. Se uno fabbrica notizie false allora, altera la conoscenza. Ah, ergo, ah, sì sì, sentilo. No, ma non screditare dialetticamente con no. Altera la conoscenza senti, delle amico cose, mio, no? Senti, amico mio. Allora io ammiro, fammela sì. dire tutta poi chiudo sì, me ne vado. Vai, io ammiro molto di più quelli sì. ad esempio che imbrattano, scrivono sui muri scritte ingiuriose, sì. perché al netto del fatto che li querelo quando è capitato a me li ho denunciati. Vabbè, allora... perché c'erano anche delle minacce, almeno hanno il coraggio di uscire la notte con delle bombolette e di ma scrivere le loro invettive sui muri non e rischiando nulla. Di essere presi in flagranza di reato. Non c'entra niente. Questi imbecilli, leoni da tastiera che dal caldo delle loro spelonche allora? Scrivono ingiurie e messaggi e minacce su Facebook. Ma questo e sulla che rete, c'entra con le fake news? Vanno certo che c'entra anche questo, fake news ragazzi, e minacce. Ragazzi. La rete vale quanto il mondo ma chi reale, dice il contrario? Non ci sono regole diverse, quindi è giusto fare una legge sì. che purtroppo non faranno legge? Però ma quale per legge? Sanzionare ma chi c'è... fabbrica il falso. Allora, senti, perché la fabbrica del falso altera allora, la percezione del reale. L'hai già detto, allora no, la cosa è, mo- la cosa è molto punto, mi pare. La cosa è molto semplice, ma è proprio elementare. Se uno dice una stronzata, che sia fake news su internet o da un'altra parte, vanno c'è sanzionati. Aspetta, c'è chi la, ospita, c'è Facebook, la, non mi interessa, c'è la legge e tu li puoi portare in tribunale. Ecco, ma queste i politici, piattaforme, ma non mi interessa, devono farsi responsabili, ma sì, ma di quelli siamo, che sono i contenuti veicolati. Ma non siamo qui a fare una discussione su questa cosa, chi beh, se ne frega. Questo è il principio, la questione è diversa. I politici stessi sono una fake news continua, una continua demagogia continua, una continua, ma è da 50 anni che è un continuo racconto di cazzate. Ma questo non c'entra niente, quella è la propaganda. Ma cosa non vuol è dire? La stessa conto cosa, è la propaganda, no. Le notizie no, false, no. Ma no, conti, non mettere spacciate tutto in un calderone come bene, unico. No, no, va bene, ma non quale è vero, notizie no. False? No, hai ragione tu, hai ragione tu. False? Hai ragione notizie tu, false sì. Sono ad esempio la foto della Boschi al funerale di Rina. Quella è una notizia falsa, una minchiata che è stata twittata e ritwittata migliaia di volte. Il colpevole lo portassero in tribunale. È una foto notizia falsa. Lo portassero in tribunale. Vergogna. In tribunale. Vergogna. Ma li portassero in tribunale. Chi l'ha diffusa, chi l'ha prodotta. Sì, e ma... ha una responsabilità chi l'ha diffusa e chi l'ha prodotta. Benissimo, ovviamente. Me li portassero in quindi tribunale. Si chiede solo questo in questo disegno di legge, 50... che purtroppo i politici non verrà... da 50 anni raccontano cazzate. La menzogna è un'altra cosa. Non mettere i la foto della non Boschi mentono? Che ha altre colpe, ma non quella di essere andata al funerale di Rina, è una cosa di una gravità inaudita. Vabbè. Qualche imbecille che va gravità, in rete magari ma ci crede, ma e quindi va sanzionato e punito. E chi e anche le piattaforme che le pubblicano detto, devono essere responsabili. L'hai già lo dico, ma lo ripeterò fino al 2022. Benissimo, lo ripeterò. Benissimo, bravo. Hai già detto. Bravo, sulle certo cazzate dei politici già. Non dice mai nulla, però. Allora, ma le cazzate dei politici vengono stroncate da bravi giornalisti. La classifica, e da chi, la classifica le, delle, città, delle città dove si vive peggio in Italia. Roma fa schifo. Non esempio. So se ti stupisci di questa cosa. La classifica: 105esimo posto, Salerno, 106 Brindisi, 107 Napoli, 108 Reggio Calabria, 109 Taranto, 110 Caserta e non dico niente. Favoloso il 107° posto di Napoli nella classifica delle, delle vivibilità. Il 107° bello, bello. A proposito dei messaggi che abbiamo ricevuto sulla vicenda di Amazon, io ribadisco ancora una cosa e poi voglio chiudere su questo perché non frega più cazzo a nessuno. No, allora, frega. Aspetta, aspetta. Di lavoratori, sì, benissimo. Di allora, lavoratori. Protestare. Speriamo che blocchino tutto a Natale. Mi fai parlare sì, o no, cazzo? Che ma non è possibile, tutto. Cazzo. Blocchino ma stai, tutto. Fai i comizi dalla mattina alla sera, fammi parlare, no, cazzo. Allora, protestare un lavoratore che protesta perché cammina troppo mentre lavora ad Amazon. E Parenzo si augura che blocchino tutto Amazon a Natale. Sì. Che è incredibile, incredibile. Poi sono tutto io il distruttore di imprese. È come cioè, protestare perché uno cammina troppo. È come se un pornostar volesse fare causa ai produttori perché ha dolori al pene. No. Dolori al pisello, vi dovete solo vergognare. Vi dovete vergognare di protestare perché camminate dici? Troppo. Capito? Vi dovete vergognare. Pensate alla gente che si fa un culo così. Ci sono centinaia di persone che mi hanno mandato messaggi e mi hanno telefonato che si fa un mazzo così dalla mattina alla sera sui camion e a partita IVA. Vergogna, vergogna. Vanno migliorate le condizioni di lavoro, questa è una cosa fondamentale. Non rompere il cazzo, dai, non rompessero i coglioni. Pasquale dalla provincia di Napoli, dai, forza. Pronto. Dai. Vanno bruciate tutti, Rome, vanno bruciate con la benzina. Ecco il fake. Qua, ecco il coglione, dai. Ecco il fake che vuole spararla grossa. Amico mio, ti riconosciamo lontano un miglio. Ti riconosciamo da lontano, capito? Siamo esperti di queste cose qua. Pasquale, ho anche il tuo numero. Di cosa vuoi parlare, Pasquale, dimmi. Bruciate tutti, bruciarli. Roberto bruciarli. Dalla provincia di Fermo, sei un coglione, yeah. Pasquale, ti riconosciamo yeah. Da lontano. Roberto, vai. Pronto? Vai Roberto, dimmi. Ciao, senti, io volevo sentire complimenti, ma tanto non mi attaccare in faccia per i complimenti, ma sono sincero. No, non ti sentiamo, Gianfranco dalla provincia di Milano, vai Gianfranco, io elimino tutti adesso, tutti elimino, Gianfranco dalla provincia, tutti, dal primo all'ultimo, nessuno. Non mi interessa, tutti, io e te. Gianfranco, provincia di Milano, diretto. Se non sento bene uno, se uno dice che, tutti sì. Elimino, come mi va? Gianfranco, vai, dimmi Gianfranco, Antonio da Napoli, vai Antonio, dimmi. Sono io? Dimmi. Allora Giuseppe e David, buonasera innanzitutto. Mi pareva un po' stucchevole la questione del costo dell'abito di David. Io sono un cliente della stessa sartoria e piuttosto che soffermarsi sul costo dell'abito, pensiamo al gusto che ha Parenzo. Io l'ho visto in TV è giusto, sempre questo... perfetto, sempre carino. Beh, oddio, la gente dice questo il contrario, tema, la gente mi scrive il contrario. Sì, comunque. Va benissimo, poco beh, male. Ma perché non, quelle cose sono per molti e non per tutti, ma non tanto per. Ma non ho capito, tu ti vai a servire nello stesso posto? Io mi servo nello stesso posto. Oh, quanto costano gli abiti in quella sera? Dipende. Costano abbastanza, dipende, cioè, tipo, dai. Beh, diciamo che non si scende al di sotto dei 2000 e poi si va anche al di sopra dei 4000. Certo. Dai 2000 in su. Dunque abbiamo già un range. Dai 2000 in su. Dai 2000 in su. L'ottimo ascoltatore dice una cosa molto giusta, perché dipende anche dal tipo di stoffa. Ma intanto ha detto dai 2000 in su. Comunque si parte dai 2000. No, non necessariamente. È un jeans confezionato e questi sono sassi, quindi non è la confezione, non è il loro cavallo di battaglia. Costa intorno ai 500 euro, quindi se fai 2 più 2 ti rendi conto di quanto può costare. Cioè minimo 2000, minimo 2000. Minimo 2000. Sì, sì, ragazzi, non ci scappa. E poi dicevo la cosa che io sono un grande ammiratore sia tuo che di David, ma allora? La cosa che mi fa piacere è che condivido anche, ho sentito che è andato a pranzare con il professor Benincasa da Cicciotto. Vabbè ragazzi, però volevo fare questa domanda a David. Lui sì. Che è stato in quella sartoria, in quella location, come alla luce della vivibilità di Napoli al 107° posto, magnifico, che è uscita proprio oggi. Magnifico. Vabbè, ma, chiaro, ma se vai alla sartoria dove paghi gli abiti 5.000 euro e vai al ristorante così molto è meraviglioso. Più profonda. Napoli è straordinaria, ha ragione, una domanda profonda la sua. Napoli in realtà è una città straordinaria perché tu i quartieri popolari confinano con i quartieri chic, cioè ragazzi, c'è una mescolanza vera, incredibile, straordinaria di quella città. Gaudenzio da Roma, vai. Gaudenzio da Roma, vai. Questo ha ragione questo ascoltatore, una bella riflessione da fare sulla città di Napoli. Sì, la riflessione è straordinaria. No, Gaudenzio, certo, vai, i quartieri spagnoli confinano con altre zone meravigliose della città. Sai che è una scoperta però nuova. Tutto questo, ma tutto nuova? Questo rende Napoli speciale, esclusiva, ma è una cosa nuova, straordinaria, ma non con una umanità vera. Mai sentita, capito? Questa cosa, Gaudenzio? Beh, veramente, mai sentita. Mai sentita adesso, no, mai sentita. Ma è incredibile. Stasera l'hai sentita. Gaudenzio, vai. Buonasera a tutti. Dimmi, Gaudenzio, dimmi. Io volevo fare due considerazioni. La prima a Cruciani, che sbaglia quando dice che il reddito di cittadinanza è un regalare soldi. Il reddito di cittadinanza è una manovra economica. Sì, vabbè, Gaudenzio, di cosa vuoi parlare? Non mi fate incazzare stasera. Okay. Cosa vuoi dire? No, tu devi renderti conto che sbagli anche tu. Gaudenzio, vai a fare in culo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Le cose più grandi si fanno insieme. Puoi sottoscriverlo fino al 6 dicembre. Partecipa all'aumento di capitale di Banca Carige. Per maggiori informazioni chiama il numero verde attivo per tutto il periodo di adesione 800 189 037. Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto informativo disponibile presso la sede legale dell'emittente e su gruppocarige.it. Ma ho solo cliccato un link. Un gesto abituale può mettere in ginocchio la tua azienda. Gli attacchi informatici aumentano di ora in ora per numero ed efficacia, minacciando business e continuità operativa. Proteggi il tuo lavoro con Kaspersky Lab, l'azienda di cyber security più premiata al mondo. 400 milioni di utenti hanno già scelto l'affidabilità di Kaspersky. Vai su kaspersky.it o contatta un nostro partner. Da Euronics fino al 14 dicembre Samsung Galaxy J3 più cover tuo a 189 euro, e se spendi almeno 499 euro in regalo l'esclusivo set di posate Saint Bonnet. Euronics ti ascolta davvero, vedi il regolamento nei punti vendita aderenti. Ti potrei parlare di spazio, raccontarti di uno stile unico al mondo e solleticare il tuo ego con parole che spiegano come la potenza non tema alcun terreno, alcuna condizione. Potrei, ma a volte basta così poco per dire tutto. Maserati Levante, The Maserati of SUVs, da 74.135 euro. Scoprila su maserati.it. Dopo il successo di Sharing Italy, evento in cui imprenditori ed esperti italiani e internazionali hanno fatto il punto sullo sviluppo economico del paese, siamo andati alla ricerca di testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del territorio. Nuovo appuntamento a Milano il 30 novembre con la seconda diretta del tour di Focus Economia. Tutte le info su radio24.it. Sharing Italy è un'iniziativa di Intesa San Paolo. State ascoltando un programma offerto da... Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. La Zanzara. Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono. Ma come cazzo fai a darmi del brutto a me? Ma ti sei visto, brutto cesso? Ma sei visto il tuo contorno occhi come sono? Sembra che ti hanno appena dato una mano di cazzotti Mike Tyson. Ma ti sei visto? Quanto brutto sei che sembra uno zombie. Sembra uno zombie e viene dato del brutto a me. Brutto cesso, vattene con le gambe. Ma vaffanculo, testa di cazzo che sei brutto cesso. Nessuna figa te la darà mai la figa a te. Nessuna, neanche se le paghi. A me me l'ha sbattuta sul muso, ma l'ho pure violentato e ti dirò di più. Tre escort me le hanno data gratis, coglione. Te queste cose qua non le avrai mai, imbecille. Signor Mauro, ora la domanda. La domanda, io poi non voglio parlare troppo, ma la domanda è questa: vi sembra credibile tutto questo? Chiedo solo, non voglio fake news, cose, vi invito solo ad andare a vedere la faccia e vederlo anche in TV, ogni tanto va lì a Canale Italia, ve lo so fare anche l'opinionista. Vedete, no. Digitate voi Mauro da Mantova su Google, vedete, giudicate voi se questo racconto può corrispondere alla verità. Io non dico più niente, guardatelo, fa schifo ragazzi miei, è grasso, brutto, sporco, con i capelli tinti di giallo, una volta di arancione, quegli occhiali inguardabili. Arancione mai, no, no, arancione mai. Gialli, che occhiali ha? Giallo, giallo, tinti di giallo, sì. È proprio ributtante, è brutto. Vedete voi, è verosimile secondo voi che addirittura l'escort gliela danno gratis? Amici miei, dai, ma io chiedo solo verità. Chiedo non giustizia, chiedo verità. Ragazzi, mentre in Italia si fanno pasticcerie per animali, pasticcerie per cani, e mentre ormai il veganesimo è impazzo ovunque, A Parigi ci sono qualche migliaio di persone che vuole fare una crociata per impedire l'uccisione dei ratti, una crociata radical chic a favore dei topi di fogna, altrimenti detti pantegane. Sono 6 milioni, ma vogliono bloccare la loro uccisione perché è in corso, secondo questi poveri pazzi, un genocidio dei ratti. Raccolgono le firme per impedire questo genocidio. Sono esseri senzienti che vanno trattati come esseri umani. Ragazzi, andate a fare in culo. Non vincerete mai. Mai. Mai. I topi vanno sterminati, punto e basta. Senza troppe discussioni, senza pippe mentali, eccetera, eccetera. Non sono esseri senzienti, non so, ma chi se ne frega. Sono esseri senzienti, sì, allora soffriranno, sì, allora chi se ne frega. Se invadono le nostre città, vanno sterminati. Sterminati, uccisi, punto e basta. Siamo razzisti? Con no, alcuni no. Animali sì e altri no, tipo i gatti, i cani, eccetera. Sì, con gli animali siamo razzisti, scegliamo noi quali uccidere e quali non uccidere. Ma guarda, non c'è bisogno di uccidere. In Israele qualche anno fa, che c'è stato un problema di invasione di topi, tu dirai che c'entra Israele, c'entra, perché a Tel Aviv, che c'è stato un problema analogo, gli israeliani, anziché uccidere, cosa hanno fatto? Hanno riempito Tel Aviv di gatti e hanno risolto il problema. Oh, a proposito di vegani, ho visto ieri un servizio su un signore vegano che si chiama, com'è che si chiama quel deputato? Bernini, credo, no? Quello super vegano che crede a qualsiasi cosa, eccetera. Paolo Bernini, il quale ha fatto fuori a un certo punto un suo assistente, gli deve dare pure dei soldi, c'è una causa in corso, però siccome i beni, come sai, dei deputati sono impignorabili, non riescono a pignorare i suoi beni. I Rilini, curiosamente, sono contro l'impignorabilità dei beni, per cui c'è questo cortocircuito. Ma a parte questo, c'è la questione fondamentale, cioè essendo vegano, Bernini si è accorto che questo assistente non era vegano e tra le scuse per mandarlo via c'è anche questo, cioè il suo ex assistente mangiava la carne. Adesso ha assunto un vegano, pure gay, però quello non c'entra niente, infatti. Beh, credo perfettamente, ma voi culo, però, siete opposti all'esecutività della fanculo. Ma questo è coglione forte. Sotto la pioggia ancora che caga il cazzo. Questo è Bernini contro Filippo Roma. Mi caga il cazzo, vaffanculo, eccetera, eccetera. Stanno importunando questi delle Iene. Puoi intervenire per cortesia? Non mi rispondo. All'onorevole Bernini, stanno importunando? No, lascia stare. Ecco qua, signore e signori, Paolo Bernini, l'onorevole che rispetta gli animali, ma non rispetta le sentenze. Giudo? Questo è da querela. È da querela. I got her. signor Bernini. Scusami, ma ho sentito bene, dice onorevole, ma non era un cittadino. Ma i 5 Stelle non erano quelli contrari al titolo di onorevole? No, ma non credo che lo dica lui, non credo che lo dica lui. Non credo lo dica lui, onorevole. Mi sembrava fosse suo. No, non credo. Michelangelo da Bari, vai. Comunque, ragazzi, Renzi è il PD, ma come lo potrei dire per qualsiasi politico, che fa la battaglia contro le fake news, cioè contro alcune cose che in realtà ecco, sono. Ecco, scusami, mi scrive Robert Hannuna. In Israele altro che topi, qui è pieno di topa, dice. Vabbè, sì, Hannuna è numero uno. È incredibile. Allora, no, ma il PD, ma altri politici sarebbe la stessa cosa, che fanno la battaglia contro le fake news. Vi elenco subito tre cose che ha detto Renzi. Una cosa che la principale, che si sarebbe ritirato dalla politica se avesse perso il referendum. Primo, cazzata, fake news. Minchiata. Cioè, il problema sono quattro coglioni su internet che fabbricano notizie finte? Ma dai, andate fare in culo, dai, su, Michelangelo da Bari. È patetico, dai, è una cosa patetica. Con no, giornali patetico. Che fanno i titoli principali su questo. Giusto. Con la Leopolda in cui c'è gente che fa una cosa grave per la democrazia. Ma avete detto cazzate sempre. Giustamente, perché la politica è fatta anche di propaganda e di cazzate. Ma, non rompete i coglioni quattro deficienti che su internet fabbricano notizie. Ma dai. Perché rendi quella notte in cui tutte le vacche sono nere, Michelangelo, come diceva il filosofo. Perché la cosa peggiore... c'è una differenza tra la foto della Boschi falsa al funerale di Rina, ma sono quattro deficienti, e una promessa elettorale magari non mantenuta. È una fake news la foto della Boschi messa in giro da questi banditi. L'abbiamo capito. La Boschi ha altre colpe. Benissimo. Combattetela per quello benissimo. Che scrive, la denunciassero sti quattro cialtroni e non ci rompessero cazzo. È un tema cazzo. Enorme ma di democrazia enorme, sì. Di tenuta della sei democrazia. Sei come la Boldrini. Tema serissimo da affrontare. Tema serissimo, guarda, ti giuro, gli italiani sono preoccupati ogni giorno, ogni secondo dalle fake news. Michelangelo da Bari, ogni secondo. Se vai in giro a chiedere da che cosa sei preoccupato tu, bella, le fake news, ma vai a cagare. Michelangelo, delle false notizie. Uno deve essere informato, ha diritto a essere ben informato. Lorenzo ha pienamente ragione, infatti lui ha appena detto una fake news. Cioè? Infatti ha detto che queste pagine sono riconducibili al Movimento 5 Stelle. Sì. Alcune galassie realtà, di movimenti, no, di come dire, di cose vicine al 5 Stelle. Le galassie sono quelle che ci stanno... pagine create da utenti X, non riconducibili in nessun modo al Movimento 5 Stelle. Se un domani qualcuno si fa una pagina a suo nome... Alcuni di questi scrivevano sul blog di Grillo. Alcuni di questi scrivevano sul blog di Grillo. Scrivevano sul blog di Grillo. Allora poi li avete allontanati. Meno male. Ma che vuol dire? Meno male. Può controllare che queste persone abbiano pagine. Quindi lei ha appena detto una fake news di quelle eccezionali. Piero da Savona. Ciao, Piero da Savona. Vai, Piero, dimmi. Ciao, voglio dire due cose. Una sulle fake news e una su Amazon. Va bene. Allora, fake news, Parenzo come al solito dice idiozie, nel senso che i giornalisti corretti, tra mille virgolette, le dicono giornalisti politici, le dicono H24. Ma sì, ma dai. Ti faccio un esempio, no? Si dice sempre, ad esempio, il dibattito sulle armi da fuoco in America. Si dice sempre, in America si può tranquillamente andare al supermercato e comprare un'arma da fuoco. Non è vero. Ma chi ha mai detto una registrazione si come possono comprare le armi con più facilità, non al supermercato, sicuramente con facilità. Vabbè, allora? Ma ci vuole registrazione, c'è una registrazione, ci sono i controlli. Invece tutti i politici... Sì, ma è più semplice rispetto all'Italia. PD, non c'entra, perché loro dicono che tu vai al supermercato e lo compri senza nessun controllo. Se non credi a me, chiedilo all'UTVAC. È un'altra normativa rispetto all'Italia. Ragazzi, comunque lui vuole dire una cosa molto semplice. Di fake news siamo invasi anche e soprattutto per colpa di politici che stanno dalla mattina alla sera in televisione. Non ci rompessero il cazzo con quattro minchioni che su internet si inventano dei montaggi, delle cose, li denunciassero e non rompessero ma i coglioni. La foto chiaro? Della Boschi senti, al funerale di Rina, senti, la politica danni occupa fatto? La RAI e l'informazione da una vita. Ma non rompessero il cazzo sulle fake news. Problema c'entra? Inutile e marginale. Ciao, via. Allora, ieri sera c'era da Giletti il signor Cateno De Luca. Per chi non lo sapesse, Cateno De Luca è stato da poco eletto all'Assemblea regionale siciliana, ha diversi processi in corso, è stato recentemente incarcerato ai domiciliari, poi sono stati revocati questi arresti domiciliari, lui è furibondo con i magistrati, ha parlato di mafia giudiziaria, è accusato di evasione fiscale, si difenderà naturalmente, eccetera, eccetera. C'è stato un grosso combattimento con Parenzo, perché tu dici lui si deve dimettere il signor Cateno De Luca per fare chiarezza. Per potersi difendere meglio. Sentiamo. No, anche per potersi sentiamo. Difendere meglio. Sentiamo. Se fosse capitato a me, che sono un collaboratore di questa rete, quello che è capitato a lei, il dottor Urbano Cairo, 30 secondi dopo aver letto questa notizia, avrebbe preso il telefono, avrebbe fatto il mio numero 347 Vabbè, sono tutto ma quello numero, dovrebbe farlo anche senza l'indagine. E avrebbe detto, scusi Parenzo, per opportunità noi la sospendiamo. Dire magistrati che si metta per raccomandazione politica in Sicilia, ma no, cominciamo a fare, ecco qual è il sistema massonico di cui io parlavo, ecco qual è il sistema trasversale che in Sicilia impera, dove c'è contiguità tra magistratura e politica, di farli favore a vicenda, si assumono i figli, ci sono le coperture, quando saltano poi gli equilibri li arrestano, ecco cosa è successo con Genovese. Vabbè, poi non si capiva più un cazzo. Insomma, ti ha attaccato su questo. Io lo chiamerei perché secondo me dovresti chiedergli scusa. Dovresti chiedergli scusa. Ma non credo proprio. Sì, sì, adesso fra poco lo chiamo. La zanzara. Chiamiamo Cateno. Cateno De Luca. Cateno De Luca, politico siciliano, indagato, sotto processo, però scarcerato, furibondo anche con Parenzo, che dice che si deve dimettere. Sì, Cateno? Sì. De Luca, salve, c'è Parenzo che vuole un attimo parlare con lei, vuole chiedere scusa per ieri sera. No, voglio chiedere scusa per niente. Parenzo? No. Salve, ci siamo visti, siamo scontrati ieri a Nonell'Arena dal dottor Giletti. No, non voglio chiedere scusa, voglio ribadirle con grande tranquillità il fatto che secondo me lei si deve dimettere e difendersi nel processo con la veemenza e la forza che ha, che ritiene più opportuna, ma non può stare lì a fare il deputato all'ARS e sparare quelle cose contro la magistratura. Per me è inaccettabile questo, infatti io non la chiamo neanche onorevole. Vabbè, grazie signor Parenzo, io della sua opinione me ne fischio, per cui la sua opinione si dimetta, la si dimetta. Ma perché si dovrebbe dimettere? Non ho, si dimetta, non ho si bisogno dimetta. Di dimettere, è un motivo molto semplice, perché lei ha detto delle cose gravissime ieri e lei ha detto fatto... E lei ha dato un'espressione del giornalismo altrettanto gravissima proprio. Ma che me interessa il suo giudizio sul giornalismo? Ma si figuri che me ne frega del suo. Però io invece, scusi, signor De Luca, io sono. Grazie a Dio sanno bene. Ma quali elettori? Hanno valutato quelli che mi hanno votato, che sicuramente non sono né mafiosi né stronzi, ma, no. E sicuramente gente di grande intelletto. Ma questo mi preoccupa che 5.000 persone. Mi preoccupa. Mi dispiace che gli ospizi non ci sono più perché le va ricoverato perché è ignorante, perché permette? Non conosce la storia, non mi permettono di conoscere la storia, non sa niente. Io mi vergogno di 5.418 persone che l'hanno votata, nonostante come è diventato giornalista preferisco non parlare perché ma lei come si permette? È il classico personaggio da questo punto di vista e mi permette, lo ribadisco, che è veramente prezzolato, la prego. Prezzolato da chi? Dottor De Luca, aspetta, da chi? Ha dato abbastanza spettacolo, la ringrazio. Dottor De Luca, dottor De Luca, è grato perché ha capito finalmente a 14 anni come funziona il mondo, si è messa a piangere ieri sera, questo glielo devo dire, perché ha capito anche di quanto male fanno certi personaggi, però dottor De Luca, dottor De Luca, dottor De Luca, ci sono i personaggi che in Italia purtroppo fanno sì. Dottor De Luca, scusi un attimo, dottor De Luca, no, dottor De Luca, scusi un attimo, dottor De Luca, sono Cruciani, buonasera, dottor De Luca, buonasera. Allora, io sono totalmente dalla parte sua, perché non è possibile che si dia per condannata o si debba dimettere una persona che non ha alcuna condanna ancora, questa è la realtà dei fatti. Spiegami Parenzo perché si dovrebbe dimettere, è una vergogna quella che ho stai dicendo. Ho detto semplicemente che lui ha tutto il diritto e il dovere di difendersi. Ma nel perché migliore si dei dovrebbe modi dimettere? E con tutte le armi che ritiene, assolutamente. Però nel frattempo faccio il casalingo, cioè io che ho collazionato comunque tutte queste assoluzioni e queste archiviazioni, io dovrei continuare a stare fuori. Sono stato 5 anni a subire il calvario, perché devo continuare a stare fuori dalla politica? Questo io l'ho ribadito. Bravo, bravo. La mia lotta non è nei confronti della magistratura, è nei confronti di alcuni personaggi della magistratura che sporcano l'onesto lavoro. Ma lo dica nel processo. Chiaro, l'ho sempre detto, lo dica nel processo. Ho fatto 2 denunce, ha capito? E siccome il cane non morde cane, io non ci posso fare niente se dopo 4 anni nessuno ha fatto ancora un'inchiesta. Se dopo 2 anni nessuno ha fatto un'inchiesta, ma nessuno ha... Scusi De Luca, De Luca, scusi un attimo. Che devo fare, caro Parenzo? Che devo fare? Prendere la lupara? Me lo dica lei che dovrei fare dopo che ho fatto le denunce. Che cosa dovrei fare in questo cazzo di Stato? Me lo spieghi lei, Parenzo? Mi sono sospeso, io sono rimasto senza niente per 5 anni. Ha capito? Ho pagato pegno. Se ecco. Lei è un nuovo caso Tortora, si ricordi che Enzo Tortora si dimise da deputato e affrontò il Parenzo, processo. Io allora, mi auguro che lei riesca a dimostrare tutta la sua innocenza. Glielo auguro. Non può offendere 6.000 persone, mi hanno dato il voto. Ha capito? Lei non lo può. Questo è vero, fare. Non si può offendere. Dai. Ecco l'altro. Senti l'altro. Deve chiedere scusa, non a senti me. L'altro. Chiedi scusa a chi ha eletto De Luca. Se non sono delinquente perché hanno votato De Luca, ha capito? Questo lo deve fare. Se è una persona seria, se è una persona onesta. Perché le persone? Esatto. Perché le persone che hanno? Perché le persone che hanno? Scusa. Le persone sanno che sono una persona per bene, che sono una persona valida, ha capito? Non pensano che io sia un buffone come lei, ha capito? Glielo dico molto chiaramente. Lo dica almeno. Su questo profilo. Chiedi scusa. Io dico che, tutti, io dico che quello, spesso in Sicilia abbiamo insullare di porte io di quale giurato non si permette, ma prezzolato da chi? Ma come si permette? La prezzolato da chi? Seria, ma prezzolato da chi? Seria. Come si permette? Chiaro, si prezzolato le da chi? Le il caffè, le darò 100 euro, ma mi faccia per cortesia, mi lasci in pace, perché io sono la persona. Lei si difenda del processo, certo, si difenda del processo. E siccome io sono un uomo ieri pubblico, il suo allora avvocato scusi, in catelo De Luca, che le persone prezzolate come lei fanno, che campano ancora con prezzolato. Io guardi, sono talmente magnanimo che siccome lei ha già tanti guai, aspetti, De Luca, aspetti un attimo, De Luca, aspetti un attimo. Sono cruciani, sono sempre cruciani. Perché lei perché ha parlato di mafia giudiziaria lei, De Luca, scusi? Per un motivo molto semplice, perché c'è sempre la stessa mano che ha agito in questi procedimenti, l'ho denunziato, cosa che ancora forse il signor Parenzo non sa. L'ho denunciato con nome e cognome, sto facendo la terza denuncia, per ora sono dal professore Taormina, dove stiamo completando la terza denunzia. Professor Quindi Taormina. Cosa devo fare di più io? Professor Taormina ha detto che ha già il nome del colpevole. Sentendo, è in viva voce il professore Taormina. Professor Taormina ha già detto che ha il nome del colpevole, ha ragione De Luca. Ha ragione De Luca. Bene, e allora lasciatemi stare ora, per cortesia. Comunque per De Luca, lei non si dimetterà mai, no? Sei veramente da questo punto di vista scarso, moralmente scarso. Senta, moralmente. Senta, sia caro in catena De Luca, caro in catena De Luca, io le ho detto aziendale e io non campo di cose prezzolate. Io le ho detto, intanto io guardi, lei è fortunato perché avendo già tanti casini io non l'acquererò per quello che mi ha detto. Io non l'acquererò per quello che lei mi ha detto, perché lei ha già tanti problemi. 6.000 elettori che hanno votato De Luca. No, quei mi incuriosisce molto. Quanto conta per lei la religione, la fede eccetera in questo momento? È fondamentale, mi sento da questo punto di vista, sì. Grazie a Dio sempre cammino con, è risaputo, cammino sempre con un rosario in tasca e in mano e lo sempre, e dormo anche con un rosario. Quanto prega? Quanto molto, prega lei? Credo molto. Quanto prega? Sempre, quando mi alzo la mattina, quando mi corrigo e anche prima di mangiare. Ringrazio ma chi se ne frega di quello che mi dà. Lei non si dimetterà naturalmente mai, non si dimetterà mai dal consigliere regionale. Perché? Per fare contento Parenzo? Ma quando mai? Parenzo che può, anche perché se io mi dimetto come campa. No, beh, non esageriamo. No, guardi, no, fino all'altro ieri non ne conoscevo l'esistenza della sua attività politica. Sappiamo bene, conosciamo un'altra cosa, che conosciamo? No, no, scusi, conosciamo tutto che cosa? Ma che dici? Che vuol dire? Stoppo, parleremo. Se vuoi, io, tu e se il professore Taormina vuol partecipare. Ma scusi un attimo, ai grillini che continuano a darle dell'impresentabile, come si risponde? Ecco appunto. Ma agli idioti non si risponde, io che devo rispondere ai grillini? Sono idioti, sono idioti. Ma dove stanno governando? Hanno dimostrato di essere, da un punto di vista politico, amministrativo, attenzione, degli imbecilli e degli improvvisati. Lo sa Taormina che è grillino? Altro. Chiaro, io sono il grillo antelitteram, perché le battaglie che ho fatto... Ma quale grillo? Sì, nel senso che è un comico. Parenzo, nel senso che anche lei è un comico. Non mi continuare a interrompere, perché devo dire sempre che sei ignorante, perché ignori gli atti, ignori la storia. Tu non hai studiato nessun atto parlamentare di quello che ho fatto io. Dopodiché, le prescrizioni conosco sue. Io le auguro di essere innocente, lo auguro a lei, alla sua famiglia, al suo figlio, e me lo auguro anche per le sue 5.000 preferenze. Degno di un 14enne che ieri mi ha chiamato piangendo perché ha citato lei che ruolo svolge nella società. E colpa io tua che ha pianto suo figlio. Sì, adesso senti l'altro, il Taormina 2, senti. Ha fanno questo male. E allora, papà, io non capisco. Senta, io non ho fatto nessun male, ho fatto solo delle domande. Va bene, no, lei ha fatto ieri il ciullare. Mi ribadisce il professor Taormina che l'aspetta per mangiarci il pesce stocco. Io, lui e lei, se lei vuole. Così ci ricordiamo un po' di scorribande giovanili, va bene? Parenzo. Ma che ha fatto? Che ha fatto da giovane? Saluto Parenzo. Ma se non sono mai venuto a Messina. Ma questa che roba è? Che messaggio è? Ma che messaggio è? Quali scorribande giovanili? Ma di che parla? Ciao Parenzo. È questo il suo metodo? Senta. Ok Luciani. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Le scorribande giovanili, cioè, ti rendi conto? Le scorribande è un messaggio trasversale. È un messaggio trasversale perché io non ho mai conosciuto Catena De Lupi. Non sono purtroppo mai stato neanche a Messina. No, ma le scorribande giovanili col professor Taormina. Ecco, di che cosa parla? Beh, è un pizzino. Intanto è ha buttato lì una diffamazione, una cosa come per dire, certo. Abbiamo degli elementi per ricattarti. Abbiamo le carte in mano. Allora, cari Cateno e caro avvocato Taormina, in mano come al solito non avete un cazzo, come al solito, e mi dispiace dirlo perché adesso te la dico tutta, stavo per dirla ieri sera dal dottor Giletti. Dopo lo dici. Sì, quando vuoi. E anche in retroscena di cosa ti ha detto Taormina dietro le quinte, raccontiamo tutto qua. Tutto. Porco maiale, ti uccido io fra un paio di giorni, non fra 30 anni o fra 20 anni, te lo uccido io con le mie mani. Con le mie mani. Coglioni, che sei un porco, sei un pezzo di merda! Ti uccido io, coglione, fra un paio di giorni, te lo uccido io! Te lo giuro che ti uccido io, pezzo di merda! Donato di cazzo, figlio di puttana! Te lo uccido io con le mie mani, pezzo di merda, capito? La zanzara. Luciani sulle fake news, sei il numero uno, porca puttana! Cioè, Cruciani, se tu fai perdere il lavoro a quel povero ragazzo che magari per uno stipendietto del cazzo si sente preso per il culo da te, che tra l'altro non stavi neanche davvero cagando, ma eri stavi facendo la radio, cioè sei una carogna infame. Maurizio, di Oristano. Oh Cruciani, vedi di non rompere i coglioni a quel ragazzo che fa il centralinista e che magari adesso gli fa pure perdere il lavoro. Stai muto, hai beccato uno che ti ha fatto stare zitto, ci ha fatto ridere a tutti, stai muto, no? Salvatore da Lecce, andiamo avanti. Salvatore, come si chiamava quel ragazzo, quel lavoratore che hai offeso? Come non si lo chiamava? Aspetta, Salvatore, non come lo so. Come si chiamava quel non lavoratore? Non lo so, che cazzo ne so, mica un nome o un cognome. Siamo tutti il lavoratore dell'ENI comunque, perché quel ragazzo centralinista ha fatto quello che Giovanni, che tu hai sbertucciato in diretta mondiale. Veramente bisogna dicono lanciare l'hashtag, dicono siamo tutti con lui perché ha fatto quello che tutti noi avremmo voluto ma fare. Ma cosa c'entra? Quello fa il centralinista dell'ENI? Ma quello fa il centralinista? Quello stava lavorando. Nessuno lo tocchi. Nessuno lo tocca. Ma amici, maggioranza silenziosa. Facciamoci sentire davvero. Questa volta è una battaglia di civiltà. Siamo tutti con quel lavoratore che dopo 8 ore sta lì a discutere con Cruciani, che fa finta di essere al bagno e lo tratta malissimo e lo umilia. Hai umiliato un lavoratore. Ma non ho umiliato nessuno, semplicemente mi ha chiamato non autorizzato. Non si umiliano i lavoratori. E ci ho un po' scherzato. Lui doveva continuare a fare il suo mestiere. Lui non lo sapeva che stavi scherzando. Comunque, ho letto negli ultimi giorni delle varie testimonianze di persone che non si danno pace, si disperano perché non sanno, o addirittura una volta che riescono a sapere chi è il padre, rimangono distrutti per il fatto che il padre magari si rifiuta di incontrarli. Ora, ragazzi, perché fate di tutto per capire da chi siete stati concepiti? Cioè, che importanza ha in fondo il padre biologico? Cioè, questa cosa del sangue, no? Cioè, se questo qua non vi ha mai cagato, se ha semplicemente messo il seme e poi se ne è sbattuto i coglioni, o vi ha abbandonato quando avevate 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, oppure non vi ha mai coperto, come si dice in gergo, ma che ve ne frega? Cioè, il vero genitore non è quello biologico, questo attaccamento al sangue, al seme, ma è una cosa folle. Cioè... Beh, la curiosità c'è, però lo ammetterai. Ma lascia perdere la curiosità, sto dicendo... fortunate, amate, può darsi, però, ma io dico semplicemente una cosa. Spesso poi incontrate dei pezzi di merda, dei figli di puttana, della gente che magari non ha nulla in comune con voi. Fottetevene, i veri genitori sono semplicemente quelli che vi hanno cresciuto. Questa fissazione di incontrare quello che ti ha messo al mondo. Ma uno ti può avere messo al mondo per uno sbaglio, per mille motivi diversi. Che cazzo c'entra questa rincorsa al padre biologico? Io la trovo veramente una cosa folle, non lo so. Boh. Salvatore, vai. Ma che cazzo? Non voglio parlare con te, via Cruciani, vai via. Salvatore, non ho capito, scusami. Salvatore, non voglio parlare con te, sì, ma... ha detto di chiamarmi. Sì, ma Salvatore, non ho capito. Allora, a parte che hai chiamato tu, punto. Secondo, noi ti abbiamo richiamato al massimo. Secondo, devi farti sentire bene perché altrimenti non ti sentiamo. Ma terzo, non voglio parlare con te. Con chi vuoi parlare? Dimmi. Oh. Non voglio, chi ti ha detto di chiamarmi? Senti, Salvatore, ma non fare... Mi rovini la serata, sì, ma rovini la serata. Ma che vuoi da me, cretino? Che vuoi da me, imbecille? Che vuoi? Richiamate questo cretino. Oh, abbiamo con noi, caro David, un signore che non voglio chiamare per nome e cognome perché non vuole dare il suo nome né il suo cognome, che mi ha detto di chiamarlo amante della bella gnocca, meglio conosciuto come uno che frequenta moltissimi bordelli. Miserabile. Amante della bella gnocca, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Buonasera. Stai tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto bene. Quanti bordelli frequenta lei? Io? Ma adesso generalmente frequento il Maxim, sì, il club di Chiasso. Bene, poi? Poi, girato bene o male, ho girato un po' dappertutto. Però sì, adesso ultimamente, negli ultimi 3 anni, sì, sono sempre lo stesso, sì. Sempre lo stesso. Però dimmi una cosa, caro amante della bella gnocca, ma tu, sì, se non sbaglio, da quello che mi hanno detto, hai speso una fortuna in puttane, o sbaglio? Sì, un appartamento almeno. Un appartamento? Sì, certo. Sì. Cioè, scusa, in quanti anni? Da quanti anni che frequenti le prostitute? Praticamente 20 anni. Da 20 anni. 20 anni di prostitute. Quante, sì, volte, sì, a quante volte a settimana? Dalle 3 alle 5, ma poi te l'ho detto, ho fatto anche giro intorno al mondo, ho viaggiato, quindi ho scopato anche Brasile, Cuba, Thailandia, Santo Domingo. Sempre pagando, ovviamente, Europa, mi pare di capire. Sì, pagando, sì, tante volte anche gratis, ma... Diciamo, sì, che l'80% delle volte pagando, un 20% direi il 99%, mi pare. No, ma no, 99 no, ma perché poi ci sono, cioè, quando sei giovane le belle fighette, cioè, te la danno. È chiaro che è una scopata e basta, cioè non, no, ma la cosa interessante, la cosa interessante è questa, cioè tu dici che di avere speso, questo mi ha colpito nel racconto, sì, che mi hanno fatto e che mi ha portato a comporre il tuo numero di telefono, caro puttaniere, caro amante della bella gnocca. Ma quale racconto? No, è uno schifoso che paga da 20 anni per fare l'amore con qualcuno, cioè una roba, ma perché è schifoso? Ti senti uno schifoso, schifoso tu? Uno ti non senti è in uno grado di conquistare, aspetta, una donna anche per una serata da, lo voglio chiamare Pietro. Lo voglio chiamare Pietro perché altrimenti mi viene difficile. Chiamalo miserabile. No, Pietro. No, miserabile sei te che non te la dà neanche tua moglie. Non ti preoccupare. Anche uno sfigato che in televisione ieri sera ha dato dei miserabili. Noi che siamo in numero uno, detto che andiamo con le ragazze. L'ho detto ieri sera, certo, tu in diretta televisiva. Ho detto miserabili chi va con le prostitute, senza ombra di dubbio. L'ho detto, mica no, lo dico solo alla radio, lo dico ovunque. Perché non te la dà neanche tua ma moglie. No, ma adesso quello che ne sai non tu. Non ti preoccupare, non lo puoi sapere. Ma non lo puoi sapere tu, Pietro. Vergognati. Non ti preoccupare, sporcaccione. No. Sporcaccione, non ti preoccupare, sporcaccione. Di noi perché lo stipendio lo lasci a tua moglie e te la dà. Sporcaccione. No, beh, ragazzi, però non ti preoccupare. Io volevo sporcaccione, aspetta, non ti preoccupare. Ma non mettere uno sporcaccione, vergognati. Vabbè, scusami. Pietro. Sei comunicativo. Pietro, scusami un attimo. Allora, sporcaccione rimane, sporcaccione. Pietro, rimane. Scusami un attimo. Allora, anche dunque. Tu sei uno sfigato. Vabbè, ma che c'è? No, ho detto sporcaccione, non sfigato, sporcaccione. Va bene, allora. Sei tu miserabile. Io non ho capito, dalle 3 alle 5 volte a settimana prima andavi? Sì, sì. Quanto spendevi? Sì, sì. Una media di 2000 euro al mese, solo in Svizzera, poi qualcosa anche in Italia. Un 200-300 euro al mese in Italia. In Italia dove vai? Internet o per anche per strada? No, sì, con le cinesi in appartamento, brasiliane, russe. Ma per strada pure? Dai 30, no, sì, certo, con le OTR. Ma certo, come se fosse stupendo. Come fosse normale, come fosse della roba. Ma è normale. Certo che è normale, è normalissimo. Se uno me non me la dà, io non perdo tempo, me la cerco. Non ho schifoso, è evidente che non te la danno. Sei una persona ributtante. Ma che ne sai? Ti sei visto allo specchio? Vabbè, fermi, ragazzi. Ma non dal punto di vista anche fisico. Io non lo so che faccia lei abbia, ma da quello che dice è una persona... No, anche dal punto di vista mentale, da come apri la bocca. Vabbè, lei è una persona... Tu non conosci il mondo delle escort. È una... Ma assolutamente no. Lei è una persona ributtante. Sa cosa vuol dire ributtante proprio? Vabbè, Pietro, scusa un attimo. Pietro, scusami. Allora, prima 3 volte a settimana, adesso hai diminuito? Non ho mai avuto problemi, francamente. Hai diminuito adesso? Sì, 2 volte, perché comprando casa faccio 2 volte al mese lì al Maxing Club, però faccio anche in Italia qualcosa, Non mi limito solo lì. Comunque, oggi quanto spendi? Oggi quanto hai diminuito dalla metà, 50% in meno? Sì, spendo sui... adesso spendo sui 500-600 euro al mese. Vabbè, quello mi pare la normalità. Sì, cioè. Tutto normale. No. Sì, 700, giù lì, arriva un picco di 1000, dipende un po'. Tu andavi in vacanza spesso solamente per andare in posti dove si va a puttane? Sì. Non è che si va a puttane, sono posti dove un certo... Io quando sei un uomo e singolo, è giusto che si vada a cercare la figa. Poi quando sei un uomo singolo, okay, è pure sfigato. Gratis, e se è gratis è meglio. Anche tu sei uno sfigato, perché tua moglie non te la dai. Lei sta insultando. Io sto dicendo semplicemente che lei ha bisogno di pagare per avere. Io non ho mai pagato in vita mia, capito? Io non voglio rotture di coglioni. Che è diverso di pagare. Posso solo pagare lei, io me la posso una io, persona me purtroppo sola gratis. Ma che, scusami, anche le vostre fidanzate. Vabbè, adesso questo. Ma figurati. Scusami, Pietro, quanti anni hai, Pietro? Il 16 dicembre io sono al Maxing. Va bene, basta questa cosa. Però, Pietro, vieni lì a dirmelo che sono uno sfigato. Ma io non frequento quei posti. Ti dico in faccia il pirla che sei. Pietro, non frequento quei posti, schifoso. Pietro, scusami un attimo, io voglio capire quanti anni hai? Io 42. 40 buttati del cesso proprio. Io voglio che mestiere fai? Che mestiere fai? Una vita buttata. Che mestiere fai? L'idraulico. L'idraulico, quanto guadagni al mese? Sui 1200-1300 con gli straordinari. E come cazzo facevi a pagare 2000, a spendere 2000 euro di puttana? Sono affari miei, come facevo. Beh, no, questo è importante, però, scusami. E tu dici abbastanza determinante. Sono affari miei, come facevo. Faceva le marchette, forse, anche lui. Faceva le marchette. Anche tu l'hai preso nel culo e ti è piaciuto. Adesso cosa c'entra? Cosa c'entra questo? Cosa c'entra questo? Senti, Paperonzolo, se vieni al Maxi, Mari, dai, la marchetta, ma che c'hai? L'ingresso gratis, c'hai? Dopo 2 volte che dici il nome di questo posto, che ti fanno? Ti danno cosa ti offrono? Un aperitivo gratis. Era un'indagine sociologica, David. Era una grande indagine questa, sociologica. Evidentemente, per aver pronunciato 2 volte il nome di può quel essere, posto, sì, che non ce l'hai conosciuto, gli offriranno un aperitivo gratis e una pacca sulle spalle. Può essere, può essere. Allora, chi c'è? Salvatore, quel cretino di prima, chi c'era? Allora, che vuoi? Sono 2 volte che mi chiami, non voglio parlare con te. Ma sei tu che hai chiamato, cretino. Cosa vuoi? Parla con Parenzo, dai. Parla con Parenzo. Chi sia questo qua? Chi è? Parla con Parenzo, dai. Chi parla sei, con Parenzo, Salvatore? Cosa volevi dire, caro? Spiegami. Non voglio dire un cazzo. Siete voi che rompete i coglioni a chiamare. Sì, no, ma veramente sei tu che hai chiamato. Non ho capito. Cosa vuole? Sì. Assolutamente no. Sì, come no, assolutamente. Tu e quell'arancino con i piedi che hai di fronte. Sì, chi c'è di fronte? Arancino con i piedi saresti tu, in teoria. Ma non sono di fronte. Ma di cosa si occupa lei, caro Salvatore? Ma che ne so, ma è un cretino totale. Ma è un cretino, Sebastiano da Milano. Salvatore, senti, sai che cosa devi fare adesso? Devi andare a coricarti un attimo, farti una bella una bella siringata. Vai, fatti una bella siringata, così stai tranquillo. Sebastiano, vai. Adieu. Buonasera, buonasera, buonasera. Io chiamavo perché ieri sera, vedendo la trasmissione di Giletti, mi sono fatto la grassa presata. Ho visto l'avvocato Taormina e il Parenzo, ho detto... Sì. Mi veniva da ridere perché quasi quasi c'è, mi veniva in testa il jingolo che fate passare la sera, la vita è stata la pancia. Poi, fatalmente, è arrivato in studio. Emanuele da Roma, non si sente. Emanuele da Roma, vai, forza. Buonasera ragazzi, vai, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Allora, volevo parlare con David, no? Sulla sua... sulla sua fermo. Non sto bene, non voglio con più vivere, non voglio sapere di Rom niente, e io voglio solo uscire da questo inferno. Parenzo, 10.000 firme raggiunte! Fai un gesto, Parenzo, un gesto concreto, io sono come dici tu, un miserabile da educare, fai un gesto concreto. Assumi la Rom! Voglio la Rom a casa di Parenzo! Parenzo, assumi sto cazzo di Rom! Parenzo, qui non è che ci può essere Rom! Assumi la Rom! Parenzo, ti dico solo una cosa, se non assumi Zappa Eta, organizzi i pullman, veniamo tutti con i pullman a Milano! Parenzo, assumi Zappa Eta, altrimenti manifestazioni a Roma e a Milano! Assumi, cazzo! Assumila! La Zanzara. Crux, questa mattina porto mia figlia all'asilo, salgo in macchina, mi parte in automatico il podcast della Zanzara che ho lasciato acceso ieri sera. Nell'ordine si parte con quel ragazzo che ha conosciuto una tipa su Tinder, sono andati a casa sua, lei si è masturbata e dopo poco ha squirtato. Successivamente arriva la tipa toscana che dice che è divorziata e che guarda il cazzo dei giovani ragazzi e molto spesso si fa bombare da questi e con gli amici parla di cazzo. Ok, nell'ordine mia figlia mi ha chiesto: papà, cosa vuol dire squirtare? Papà, cosa vuol dire masturbare? Papà, cosa vuol dire cazzo? Cosa vuol dire scopare? Vabbè, io cazzo gli dico, Crux. La Zanzara. Brutto bastardo, figlio di gran puttana, ebreo schifoso, Parenzo di merda. Ma come cazzo fai a definire miserabile chi va a escort? Ma il miserabile sei tu, pezzo di merda. Tu sei invidioso perché te un escort non te la darà mai, nemmeno se paghi. Coglione! Uno vuole avere la libertà di andare con le escort. Per forza te non vuoi. Sei un frocio. Tu a escort non ci andrai mai. Perché ci danno due di picche anche se le paghi, brutto coglione, ma vaffanculo, bastardo di merda. Io se ero nell'avvocatessa Escol e nella FBAL ti davo due cazzotti che ti stendevo, brutto imbecille, arrogante, cesso, ma ti sei visto con quel naso aquilino, che brutto cane, cesso, schifoso e orrendo che sei, ma muori, crepa, cesso. Editoriale di Mauro da Mantova. Cosa più interessante di questo fraseggio è che lui però alla fine le guarda tutte le mie apparizioni sporadiche televisive, tutte. E gli monta una bile e io pagherei per vederla quando lui calcia il televisore, lo prende, no? Prende il divano, lo lancia contro il televisore, quei pochi oggetti futili che ha nella sua umilissima, terribile e puzzolentissima casa. E io immagino, guarda, si mette là sul divano, Chicolo! Col gatto, no? Chicolo! Che anche il gatto se n'è andato, c'erano di tutti, l'ex moglie se n'è andata, la figlia non gli parla più. Chicolo! Il gatto pure se n'è andato. E accende la televisione nella sua assoluta solitudine e vede, è sulla set, maledetto! E inizia a inveire contro il televisore. I vicini l'altro giorno mi hanno chiamato stamattina, domenica sera hanno chiamato la polizia e l'ambulanza per portarlo via. Chicolo! Torna una rubrica che non dimentichiamo mai, ragazzi, non la dimenticheremo mai, la rubrica della Fu Radio Padania Radio Calabria. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavamo. Mentre Salvini dice che c'è bisogno di un notaio per l'accordo con Berlusconi o comunque di qualcosa di scritto, mentre Salvini dice che non si è mai parlato di Gallitelli, dunque stoppando l'ipotesi di Berlusconi di un premier ex generale, anzi no, generale dei carabinieri, parentesi, Gallitelli da 8 anni non sente Berlusconi, non sapeva nulla. Questo è lo stato della politica italiana, ragazzi. Quello che ci aspetta nei prossimi mesi: una marea di fake news, di cazzate, altro che le fake news su internet. Radio Padania con Barin si scatena ovviamente sugli extracomunitari. Li mettiamo in miniera i tuoi fratelli algerini che vengono qua già vestiti da discoteca e chiedono immediatamente il wifi appena scesi dal barcone. Ma chi cacchio credono di essere questi? Dal presepe cattolico via Gesù dentro i profughi. Ma siete imbecilli proprio. Ciellini da strapazzo! Ma sapete che così rinunciate alla vostra religione, alla vostra identità, che è la nostra identità. Se volete leccare il culo a qualcuno, fatelo. Sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua voce. Guida il popolo nella tempesta. Che vita di merda che fai, mamma mia. Eccolo così, qua. Tutto il giorno. Ci così. Porta la cultura algerina, ci porta, dove usano chiaramente tagliare il collo a quelli che camminano per strada. Tu ci hai portato questa cultura, sei contento, sei soddisfatto? Io la mia cultura mi hai fatto imparare tante cose belle, a rispettare l'altro, anche chi è un coglione su queste cose come te. Servi di Roma fuori. Devi dire a quel manicomio colorato là che io ho lavorato 41 anni e la pensione la sono lavorata io. Hai capito, manicomio? Te lo dico io, manicomio colorato, vai a casa tua. Roma fuori. Mio nonno ha pagato l'INPS per andare in pensione a lui, non per pagarla a suo padre né a suo figlio, ha versato per se stesso. La SAR versa i contributi per la sua pensione, piantiamola di dire cazzate, per cui questa è una grande stronzata di continuare a sentire dire che ci pagano la pensione. E poi mi piacerebbe sentire una volta una di queste persone fare una bella telefonata a Radio Padania contro questa gente che continua a fare violenza, stupri e cagate di ogni genere. Luca da Como, vai Luca, vai così, Luca, vai. Tu vai. Liquidi così questo fiume di sciocchezze, via, sentiamo un'altra, avanti, Luca da Como, forza. Vai Luca. Mamma mia. Chi va a puttane è uno sfigato. Ma uno che non riesce a conquistare una donna e portarsela a letto è uno. Ma che c'entra? Ma le cose non è che vanno, non è che sono in contrapposizione, non dire cazzate, non sai nulla. Ma basta non che sai. Fai una doccia ogni tanto, che sei vestito in maniera presentabile e che hai un minimo di cervello, una donna riesce a conquistarla e anche a portarti. Ma che dire, ma cosa c'entra? Ma cosa se c'entra? Se sei uno sfigato hai bisogno di pagare per portarti la. Ma chi la dice questa cosa qua? Ma chi lo dice? Ma è pieno di gente che conosco che riesce tranquillamente ad andare con una donna e poi va in contemporanea e va a puttane. Qual è il punto? Non ho capito. Vuol dire che la donna con cui va non è capace di scopare, vuol dire che non è capace di insegnarvi come si fa a far l'amore. Ma che se dici? Ma puttane sei uno sfigato. Ma chi lo dice? Ma perché? Spiegami perché sfrutta il corpo delle donne, perché? No, ma non perché sfrutta il corpo delle donne, perché per conquistare una donna ci vuole un minimo di cervello, bisogna lavarsi ogni tanto, bisogna essere presentabili. Cioè, cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Scusa, ma cosa vuol dire? Vuol dire che se non hai... Ma ci sono persone pulitissime che si lavano ogni giorno, che vanno sia con le donne senza pagare che con le donne pagando, qual è il punto? Ha ragione lui. Mi dispiace, non sono mai d'accordo con Parenzo, questa volta sì, secondo me uno che va a puttane è uno sfigato. Sì, ma tu dici così, è uno sfigato, tu dici è uno sfigato così, ma poi non vai a, non è che ci spieghi perché è uno sfigato perché, secondo te? Perché uno che non riesce a conquistare una donna perché non ce la fa, perché perché non ha argomenti. Ma chi l'ha detto? Ti sto dicendo che non è così, che spesso ci sono persone che vanno che conquistano le donne e poi vanno anche a puttane per divertimento, perché vogliono provare, perché si sentono più liberi, perché fanno delle cose che magari non fanno con le ragazze senza pagarle, con le invece le fanno con le puttane. Cioè, Ma perché non le fanno con le ragazze, cioè con la tua ragazza, perché non le puoi fare? Ma non lo so, infatti secondo me è assurdo. Io non le poche volte in cui ci sono andato certamente per quello, anzi al contrario. Ti ho raccontato dell'esperienza assurda che ho avuto una volta in Svizzera, no? Cioè l'esperienza assurda, Parenzo, che ho avuto una volta in Svizzera è stata questa. Praticamente vado con una, no? In un bordello in Svizzera. Mamma mia cosa, non ho capito. Mamma mia, che ambiente, che cosa? Che roba disdicevole, ma come fai? Ma la tua reputazione. La mia reputazione. Cosa vuol dire la mia reputazione? Ma cosa? Ma i tuoi amici più cari, io ormai ti conosco, i tuoi affetti più intimi, ma cosa possono pensare? Ma no, io sono andato una volta. Porcheria, di questa propaganda. Ma sto dicendo il contrario. Cioè, vado in un bordello in Svizzera, no? Qualche anno fa. Vado in un bordello in Svizzera. Ma perché non vai a una mostra? No, ma chi se ne va in un bordello in Svizzera? Ma vai a una mostra, due cose, vai al cinema, cioè, due cose, non si potevano, toccare, aspetta, non si potevano toccare le parti intime con le dita, perché non so per quale motivo. E in più non si poteva fare sesso anale, ma che cazzo ci vai a fare allora? Mi sono chiesto che sono venuto a fare dopo un po'. Mi sono chiesto. Cosa? Posto la domanda. Cioè, quello che puoi fare con una prostituta non lo puoi fare con la tua ragazza. No, ma ragazza, su questo ti do ragione, da un certo punto di vista ti do anche ragione su questa cosa qua. Cioè, puoi mettere la qualità del sesso fatta con la tua donna. Ma questo va bene, d'accordo. Con una prostituta. Ma, cioè, è un povero sesso, è un povero scopare. Ma non lo so, ma dipende anche, probabilmente io ho avuto esperienze diverse, esperienze limitate da questo punto di vista, dal punto di vista della prostituzione, però ti dico non è miserabile chi va a puttane, tu lo stai dipingendo come uno sfigato, non è così. È uno sfigato, uno che va a puttane è uno sfigato. Ma va. Fermo lì, fermo. Spruzzare acqua dalla vagina adesso è assai in voga. Stanotte voglio che rimani, spalanchi le tue gambe e squirti su Crociani. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. La Zanzara. Cruzzani, guarda che ti sbagli, tutte le donne sono multiorgasmiche, ma soltanto alcuni uomini riescono a farti venire, ok? Quindi tutte le donne possono venire una, due, tre volte, ma anche nel giro di 5 minuti, 10 minuti, un minuto, ok? Devi soltanto trovare qualcuno che sappia scoparti bene. Ecco come funziona. Finché non lo trovi, puoi anche non venire mai per 20 anni. Naturalmente. David, siamo tre ingegneri e uno di noi ha anche una sua azienda. Quindi facciamo parte dell'Italia vera, l'Italia migliore. Stiamo andando a Firenze. Oh, che bello, dici. Cosa vuoi fare? Vedere gli Uffizi? La mostra. A mangiare una fiorentina. No, nulla di tutto ciò. Stiamo andando a fare una gangbang. Questo è il paese reale, David. Ciao, Parenzo. Siamo al top. Allora, facevo una considerazione prima, caro David. Mentre qui c'è il paese reale che chiama il paese vero, paese reale, non quello finto, non quello paese dei salotti, reale, non quello dei ricevimenti, non quello delle formalità, non quello dei rapporti. Ma non c'entrano niente i salotti, ma nulla, c'entrano. Ma questo lo do per scontato. A parte che anche nei salotti fanno le gangbang. Vogliamo dire assolutamente, vogliamo dire che appunto, chi entra in una pasticceria per cani che viene inaugurata in questi giorni, credo vicino a Brescia o a Brescia stessa, chi entra in una pasticceria per cani, anche se fa circolare il denaro, anche se alimenta un po' di economia, eccetera, eccetera, è un imbecille totale. No, è un genio quello che apre la pasticceria per cani. Quello è un genio che ha la mia stima. Che la frequenta, possiamo dire che è un cretino? Lo possiamo dire che chi va a comprare, se vuole buttare i suoi soldi così, meglio che lo faccia. Lo possiamo dire che è un malato di mente, sì o no? Meglio che vada in pasticceria per cani piuttosto che a prostituta, alimentare il mercato illegale clandestino delle donne sfruttate. Ah, tu dici meglio comprare un dolce per un cane che andare a prostitute? Beh, direi, il dolce per il cane mette in circolazione l'economia, non fa male a nessuno e rende felice il padrone e il cane. Chi va a prostitute rende felice soltanto chi paga e infelice la povera donna. Beh, sfruttata infelice, con dietro il racket e il malaffare. Quindi. Matteo dalla provincia di Pordenone, dai. Ciao Giuseppe, ciao David. No, era per intervenire per quello che diceva il dottor Parenzo sul fatto che... Dottor Parenzo, non esageriamo. Dimmi su che cosa, amico mio, come dicevo anche al centralino, io sono fidanzato e vado a prostitute, ma sì, è semplicemente... Lo sa la sua fidanzata? No, ovviamente non lo so. No, non c'è problema, magari in questa trasmissione ho imparato in questi sei anni a conoscere di tutto. Quindi Scusami, amico mio, non ho capito, vanno a fare scambi di coppia. Quindi no, con la fidanzata. Quindi certo. La domanda era davvero come no, dire. No, era lecita, era lecita. Scusa, ma lecita. Non potrebbe ascoltare la trasmissione? No, perché io no, auguriamocelo. No, perché tutte le volte che la metto in macchina si incazza perché dice che mi fa male la zanzara. Auguriamoci che questa sera, quando tu torni a casa, lei abbia uno sguardo diverso in volto. E anche magari un mestolo in una mano e nell'altra le tue chiavi di casa che ti restituisce. Ma non sarebbe male, me lo metterò. Non è vero che tu hai una fidanzata che non sì. sa che tu vai a puttane, dai. Ma su. Certo che non lo sa, ma certo che non lo sa, scusami, io sono sempre via. Fai conto che 300 giorni all'anno sono fuori casa. Ma intendo fuori casa, non dico fuori. Ma qualcuno riferisce, c'è uno che ho sentito che riconosco essere, appunto Matteo, che ha parlato stasera alla zanzara. Chi non è amici? Ma io praticamente sono anni che vivo così, sempre in giro a lavorare, quindi è difficile costruirsi anche una rete di amicizie tali. Per cioè, cui... non hai amici, dunque non c'è nessuno che può riferire alla tua fidanzata che tu sei intervenuto alla zanzara dicendo che vai a puttane, difficile. Pur essendo fidanzato. Dacci il numero, la chiamiamo noi. No, quello no. Lo lascio in centralino, va bene. Vabbè, Matteo, dai, a me sembra una schifezza. Ci stai raccontando una cazzata, non è vero? No, non è una cazzata. No, è così, Giuseppe. Cioè, nel senso che, ovviamente, ma lei non ti ha mai scoperto. Vi scrivo anche dalla Cina, vi scrivo quando sono in Cina, vi scrivo quando sono a Las Vegas. Vi scrivo. Ma ogni tanto vai a puttane, cosa vuol dire? Beh, nel senso che fisiologicamente come fai? Io a volte ho fatto dei giri di 90 giorni in Cina, che cazzo fai? Te lo mendi per 90 giorni? Beh, questa è buona. No, ma non c'è magari bisogno di entrare questo nello specifico. Se lei va in Cina, la possibilità magari di incontrare delle persone, di discutere, di capire il paese. Ma David, in Cina, guarda, io la conosco, capisco anche tutto quello che poi è Confindustria e quant'altro, però è proprio difficile approcciarsi a una persona e pensare di poter fare l'amore normalmente con una ragazza cinese o con una vettura. Non c'è bisogno per 60 giorni di ragazze cinesi. Si possono frequentare anche ambienti occidentali, però il problema è un altro, Matteo. Però hai anche leggere un libro, non è che uno è obbligato. Ragazzi, il punto fondamentale è questo. Giustamente Matteo dice: io vado in Cina 90 giorni. In 90 giorni sei anche fidanzato, sei innamorato, sei quello che ti pare. Ma ti pare normale? La normalità è quella di andarsi a fare una trombata in Cina in 90 giorni, almeno una in 90 giorni, extra fidanzata, extra moglie, extra ma è normalissimo, Matteo. Ma che se lo deve menare per 90 giorni, come dice? Ma non deve, ma se deve leggersi, può leggersi un libro, ascoltare della musica, fare una bella passeggiata in città. Fa anche quello, ma fa anche quello. Quello, poi ti rompi i coglioni e ti va a fare una chiavata, no? I scrittori per forza avranno dovuto in qualche modo sfogare le proprie esigenze da qualche parte. Io credo che chiunque da Dostoevskij in poi abbia comunque in qualche ma è normale, Matteo sta dicendo svuotarsi. In 90 giorni in Cina ha trovato il modo, scusa, per svuotarsi, insomma, per ma per sì, ma è, no, sì, bravo, hai utilizzato il termine giusto. Ogni tanto uno va lì, si diverte, eccetera, va a puttane, anche se è fidanzato 90 giorni in Cina, che cazzo passo? Ti racconto questa, sono stato in Austria ultimamente. Sì. E addirittura la persona per cui sono andato a fare questo lavoro, che poi era il direttore marketing di una grande azienda, una multinazionale dei trasporti, le consegne porta a porta, è stato lui a portarci poi in un nightclub della zona, quindi nel senso che sì, è normale, come una specie di benefit mi faccia capire, lei sarebbe felice se la sua ragazza, mentre lei fa questi tour sessuali, andasse con un mandingo nero? Non necessariamente, anche con Cruciani, che ha tante sele libere, magari a un certo punto, o con qualunque, o con la corte, o con Poli, o con Mercurio, perché tanto si sa che le ragazze che lavorino nelle ONG fuori dall'Italia, poi alla fine. Ma lei come la prenderebbe se sapesse che la sua compagna, mentre lei non c'è, si diverte? Cosa vuoi farci? Ovviamente ci rimango male. Meno male. Vedi che ancora è normale? Vedi che lei ha ancora un barlume di normalità? Un barlume, ma ci rimango male, ma alla fine non mi piace usarlo come termine, perché non mi è mai bello usarlo, giustificarsi, però... è difficile anche non giustificare un comportamento contrario a quello, ecco. Vabbè, cioè, ciao, pensare... Matteo. Ciao, ciao Matteo, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. È tornato Tremonti. È tornato a fare politica ancora? Giulio Tremonti. Ma non è vero, dai, in combinazione con Vittorio Sgarbi. Tremonti però si è messo in testa di chiamare gli italiani per tastare il suo così. Consenso. Pronto? Buonasera signora, sono Giulio Tremonti e sono ritornato. Si ricorda di me signora? Guardi signora, intanto dirle che sono Tremonti e sono ritornato. E siamo di fronte a una incipiente crisi economica. Dobbiamo pensare ad azzerare il debito pubblico e non è facile. Alle prossime elezioni politiche mi presenterò, io sono Giulio Tremonti, sono ritornato con Vittorio Sgarbi. Conosce Vittorio Sgarbi? Sono un grande uomo di cultura per quello che vedo. E ci presentiamo con un nuovo partito politico, Rinascimento. Cosa che ci vuole un bel colpo di Stato e metterci... un vecchio Mussolini. Quindi lei ritiene che il Duce abbia fatto delle cose giuste, importanti? Sì, sicuro Mussolini ha fatto tantissimo per la nostra terra, per l'Italia in generale. Quello che ha fatto Mussolini effettivamente ha costruito tanto, ha fatto tanto. E lei come giudica il nostro operato, l'operato dei politici? È un magna magna e basta. Mangia e basta. È il noi tipico... siamo noi che ne facciamo le spese, mi scusi, eh? Veramente vergognoso, vergognoso. Pronto? Buonasera signora, sono Giulio Tremonti e sono ritornato. Io spero che lei si ricordi ancora di me. No, non mi ricordo io di lei. Per azzerare il debito io propongo delle soluzioni. Vanno sicuramente ulteriormente ridotte le aliquote marginali in ogni scaglione di reddito IRPEF. Chiaro? Sì, sì, ho capito. Poi bisogna evitare di ritrovarsi a mangiare kitekat in una roulotte. Cioè la massa dei derivati va sterilizzata, capisce? Chiaro, ma lei in conclusione cosa vuole? Ci sono le votazioni? Vuole il voto, che cosa vuole? Guardi signora, alle prossime elezioni politiche mi presenterò con Vittorio Sgarbi. Bene, vuol dire che se ci sono le elezioni gli darò il voto. Grazie. Come ha detto che si chiama Giulio? Mi chiamo Giulio Tremonti e sono ritornato. Ah, va bene. E trova la mia biografia anche in Wikipedia. Va bene. Grazie signora. Niente, buonasera. Buonasera. Buonasera. la prima fascista. Ci vuole il colpo di Stato. Sì, pazzesco. Il colpo di Stato. Spuntano fuori i fascisti anche nelle situazioni più impreviste. Spuntano, incredibile, diciamo, incredibile, no? incredibile, sì. Riccardo da Milano, vai, Riccardo. Riccardo, comunque, cazzo, sto Tremonti non lo conosce nessuno. È stato ministro della Repubblica, è tuttora senatore. È tornato con Sgarbi, eppure. Boh, Riccardo, vai. Pronto? Dimmi. Oh, e dai. Allora, ti volevo dire una cosa. Io volevo difendere Pietro. Chi, Pietro? Ah, quello che fa troie. Sì, sì. Che spendeva 2000 euro al mese. Sì. Allora, io ti voglio dire una cosa. Io in 20 anni sì? ho speso 400.000 euro con la mia ex moglie. In che di cosa? Alimenti. Di alimenti. Se andavo a troie, ne spendevo 100.000. Quindi quale cazzo è il problema di andare a troie? E poi le troie sono sempre esistite da 2000 anni. Quindi cosa cazzo rompe i coglioni parenti questa storia delle troie? Aspetta, amico mio, metti bene io il parlo telefono. Dello metti bene, metti delle bene ragazze. Il telefono. Ma lui non gliene frega niente dello sfruttamento. Lo vedo. Non gliene fotte nulla. Lo vedo, quella lo dice: vedo, fa la troia, prendi i soldi. Io pago, lavoro, pago, pretendo, come si dice, no? Oh, giusto, Riccardo, o no? Giusto, giustissimo. Allora, io ma dico una... sono sempre esistite. Cosa cazzo è sto moralismo? Allora, Riccardo, tu, a parte forse alcune espressioni, alcune cose, credo che tu abbia colto nel segno. Cioè, hai fatto un calcolo alla fine, no? Il tuo calcolo, se non sbaglio, è quello. Io spendo 400.000, ho speso 400.000 euro in 20 anni. Se fossi andato a troie, ho capito, però questo è un tuo rimpianto. Con delle troie, molto più figa della mia ex moglie. Sì, vedo avrei che c'è speso 100.000 euro. C'è risentimento, okay. C'è tensione. C'è tensione. Tradimento. Sì, Parenzo. cioè io ho avuto ragazze di tutti i tipi, scusa, belle, brutte, c'è tensione, tutta gente, non ho problemi, non è che io vado a troie, però scusami, il povero Pietro va bene così, quale cazzo è il problema, non scusami, è che tu puoi debellare le troie. Riccardo, scusami un attimo, allora tu hai speso, io voglio tornare al punto fondamentale, cioè tu dici di aver speso 400.000 in nella separazione di tua moglie, però amico mio, questo è perché te la sei sposata, uno potrebbe dire, no? No, non me la sono sposata, non ero nemmeno sposato, cioè mantenimento figli, pensa che questa qua manco lavorava, è venuta pure come una pezzente con i debiti ed è riuscita a incularmi 400.000 euro, un genio della finanza, c'è tensione, Parenzo, c'è tradimento, così, quindi se cioè, non stiamo qui a parlare, ho capito, di però troie, hai fatto un figlio, devi andare a troie, ragazzi, perché se tu hai un momento di debolezza nella vita ti metti con una, poi ti incula, quello è fottuto. Vero, quello è vero, sei fottuto. Scusa, dimmi una cosa, amico mio, ma però tuo figlio o tua figlia, non so quanti figli hai fatto con questa signora, rimpiangi anche quello? No. No, no, ma quello no, però una rottura di cazzo, dici. Che tu poi vai in mezzo in questi cazzi di tribunali, queste qua piangono, fanno che le sceneggiate, la madre è sempre la Madonna e tu sei sempre uno stronzo e allora non se ne viene fuori. Primo. Scusami, secondo, un attimo. Volevo dire un'altra cosa, scusa, per questa storia qui di tutto questo sessismo del... i femminicidi, le donne, le molestie, sai come va a finire, Cruciani? Come? Che ce la metteremo tutti in culo. Cioè, in che senso? Ecco l'epitaffio finale. L'epitaffio finale del nostro amico. Perché sai che c'è? Che un uomo può diventare anche una bella figlia. Una donna no. Parte. E alla fine ci rompono i coglioni queste storie qua. Ci hanno rotto il cazzo. Questo filosofo. Non puoi anche dire a una che è del culo. Ci denuncia. Scusami Riccardo, però sono problemi, sa, questi. Riccardo, però tu no, hai non sei... ho problemi io, tranquillo. No, sono problemi. Siamo partiti però da un dato. Tu dici ho speso in tutti questi anni 400.000, se fossi andato a Troia non mi sarebbe successo. No, assolutamente. Assolutamente. Filippo da Vicenza, A conclusione. Sì, ciao Cruciani. Dimmi, allora, Filippo, io come volevo sempre parlare di questo argomento e difendere Pietro, però da un altro punto di vista. Sì, io volevo dire che dobbiamo smetterla con questo fatto che chi va a troie o a puttane o a prostitute lo fa perché non riesce a conquistare una donna. È non così è del 90% vero. Infatti dei casi, ci vanno anche 90. I calciatori. Ci vanno anche i calciatori, ma perché? Bravo. Perché molto spesso perché cosa sono succede? Incapaci uno di articolare farsi. Qualunque tipo di ragionamento, molti di quelli che vanno a prostituta no, non sono in grado, non però i calciatori non sono in grado di approcciarsi, di essere un minimo interessanti, di avere gratis. Delle cose da dire. Le donne sono anche interessate anche a come uno si approccia, non soltanto figurati, alla meccanicità del gesto, che, capito? Che appena vedono sono un interessate aprono le gambe. Appena ecco vedono filosofo. Un calciatore aprono le gambe, ha ragione, cioè, vuole dire i calciatori possono andare gratis, se invece ogni tanto pagano. Tu dici per quale motivo? Ma allora il problema è che quando tu conquisti una donna, la porti fuori, se tu vuoi farti una scopata e basta, non lo puoi fare, perché poi lei ti viene a telefonare, a rompere i coglioni, si innamora, ma non è detto, ma non è detto. A te ad esempio non ti richiama nessuno, non ti preoccupare. Tu dici molta gente, se non per lamentarsi, del giorno dopo, se tu non dici per molta lamentarsi gente. Il giorno dopo. Il problema è che se uno vuole solo scopare e basta, e poi non vuole rotture di palle, deve andare da una puttana. Perché altrimenti una ragazza normale dopo ti rompe le palle, ti chiama, ti telefona. E dunque ti molti preferiscono la scorciatoia, diciamo. No, comunque la cosa più facile. Ma non perché non siano capaci di conquistarla, potrebbero tranquillamente farlo. Però dopo, se vogliono evitarsi la rottura di palle, uno non è che per scopare una deve per forza innamorarsi e deve per forza fare il principe azzurro. Ti fermo lì, questa è l'Italia, l'Italia vera, David, l'Italia vera, l'Italia dei puttanieri. A domani, ragazzi. Miserabili! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.